L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale con l'Europa, l'Europa che Radio 24 segue quotidianamente, e noi insieme ad Euronet, questo network europeo che raccoglie più voci, più punti di vista sull'Unione Europea, cerchiamo di portare il nostro contributo dandovi anche altre sfumature. www.euronet.eu l'indirizzo del portale che vi consiglio di guardare, di visitare. Ci sono aggiornamenti davvero quotidiani con 24 ore in Europa, questa rubrica che Radio 24 appunto convoglia nel portale con tutta l'attualità europea, e noi che cerchiamo altre notizie, altre attualità, o comunque cerchiamo di dare altri approcci a quelle che sono che sono gli spunti più importanti, insomma, a livello europeo. 349-238-6666 per i vostri sms, oppure le pagine ufficiali in Facebook dell'Altra Europa, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti toccati. Il nostro viaggio di oggi parte dal di là del confine dell'Europa, dell'Europa che sarà. Si parte dalla Turchia. Pehlivan, pehlivan, işte meydan, işte pehlivan, size derler pehlivan oğlu pehlivan, analar çeker zahmeti, babalar bilir kıymeti, Cenab-ı Allah ihsan eyledi, Türk milletine iman ile kuvveti, Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, bağış pehlivanlarımıza, alkışlarla diyelim maşallah, Allah derman versin, gül bahçesinden topladım yaptım gülleri bir demet. Beni de sorarsanız tarihe Edirne Kırkpınar Bahçe azgırlarından Bursa İzlikli Pelemen. È una sorta di preghiera, di litania, un inno. In questo periodo estivo andremo anche alla ricerca dei festival europei più importanti, più significativi e più curiosi. Beh, oggi siamo in Turchia perché fino a domani si svolge questo che è uno degli appuntamenti più importanti della nazione turca. Pensate che è la 650esima edizione di un festival del Kirkpinar, che è una sorta di lotta turca, un wrestling turco, uno spettacolo assolutamente da guardare, anche per chi magari non è proprio amante di queste discipline sportive. Comunque c'è un qualcosa al suo interno che è assolutamente affascinante. Vi invito ad andare sulle nostre pagine Facebook perché abbiamo caricato questa mattina alcuni video di questa lotta atavica, di questa lotta antica. Ci sono questi uomini che si ungono con veramente litri d'olio, un qualcosa di suggestivo, una lotta dove è difficile anche capire quelle che sono le regole, perché è una sorta di combattimento all'ultimo sangue, anche se non c'è il sangue, però è una sorta di abbraccio, un abbraccio violento. Per capire il significato di questo sport e anche il significato di questo festival, abbiamo invitato il direttore dell'agenzia Universal News. Lui è un turco esperto anche di sport, lavora in Italia, quindi ci sembrava la persona adatta per farci vedere radiofonicamente che cos'è questo wrestling turco. Diamo il benvenuto a Dündar Kesapli. Ciao Dündar. Grazie, buongiorno Federico, grazie a te, ascoltatore. Grazie. Allora, wrestling turco è un'immagine moderna che dà un'idea un po' di cosa sia questo Kirkpinar? Ma in realtà un wrestling, una lotta molto divertente, tempo reale, anche molto curioso, perché poi insomma ci sono diversi regolamenti da secoli portano avanti questa lotta ogni anno, queste periodi. E in Turchia comunque deve tirare molte attenzioni di tutti i paesi, di ogni angolo del Turchia, ma non solo, e diciamo vanno a vedere questo evento un po' anche divertente, certo aspetto, chi non la conosce, perché comunque viene fatta in una maniera un po' diversa di quelle solite che noi vediamo, immagini, televisione o giornale. Certo, perché comunque insomma ci sono questi uomini muscolosi, guerrieri, no? Perché mi sembra che il termine sia proprio difensore, per l'Ivanhar, credo sia il nome con cui vengono definiti questi atleti. C'è tutto questo rito, questa cerimonia dove vengono unti, dove si cospargono il corpo con l'olio per rendere più difficile la presa, mi pare di capire. Esatto, sì, perché è un tipo di sport, diciamo, ancora più difficoltoso confronto a quelli altri che noi conosciamo di parti marziali, nuoto, una cosa o un'altra, perché olio comunque non dà facilità di tenere il corpo, perché anzi scivola, scivolando comunque dovresti forzare la tua forzatura in più per combattere il tuo avversario, che comunque un sport inizia da periodi del sultano ottomano, insomma da circa, come tu hai sottolineato, 650 anni fa. Quindi questo mostra anche l'epoca, quell'epoca, come erano forti i turchi, quella realtà è una forza, una immagine che volevano dare nel mondo e anche interna a Turchia, che è nato questo sport, e per una prova di forzatura, cioè, come si dice, una forza umana. Sì, sì, certo, certo. Quindi insomma anche spaventare il nemico, quella no, perché c'è comunque un impatto visivo molto forte. Ma sì, sono professionisti, sono professionisti questi atleti? Ma in realtà non tutti, perché comunque qui lì ci sono chi fa anche per sport specialisti, chi non ha da vita quotidiana fanno altri tipi di attività. In realtà è curioso perché questi tipi di sport non riguardano chilo e taglia di corpo umano, ma riguardano secondo la loro specializzazione e il loro, come si può dire, livello di informazioni genera sul sport, perché è un po' particolare questo sport, non riguarda come molti altri sport, tipo arti marziali, loro chiedono un regolamento sul peso, no? Invece questo non ci sono regolamenti, quindi uomini di diversi settori che fanno questa attività anche per hobby, perché comunque questo viene fatto solo una volta all'anno, circa diciamo tre giorni, che è iniziato come ieri. Quindi un tipo di sport un po' diverso da altri, ma comunque bisogna avere una grande passione per fare questi tipi di sport. Certo, insomma, arene gremite, no? Folklore, ma anche sport, insomma è un po' un ritorno al passato, ma ben presente nelle dinamiche. Vi invito a vedere i video sulle nostre pagine in Facebook. Grazie davvero, Dundar, tu l'hai mai sperimentato? Per fortuna no. Ok, perfetto, bene. Adesso è un po' divertente, perché è molto piacevole vederlo, l'ho visto una volta, ma poi vivendo in Italia da tanti anni non ho avuto modo di ritornare, però sinceramente è molto piacevole vedere, perché comunque un ambiente, un'atmosfera, credimi, non è facile vedere tutti i giorni quelli tipi di atmosfera, emozione, è molto divertente vederci. Sì, sì, assolutamente. Grazie davvero, Dundar. Signora. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Tutti i mari in un acquario. Siete amanti del mare e degli animali, ma non potete tuffarvi nelle profondità marine per curiosare nella vita dei pesci? Potete andare a Istanbul, dove da poco ha aperto un acquario con più di 15.000 pesci che arrivano da 16 regioni del mondo, dal Mar Nero al Pacifico, dal Bosforo al Mediterraneo. L'acquario è uno dei più grandi del mondo e non ci sono solo pesci, ma anche tanti animali che vivono intorno all'acqua, come le infinite specie di rane. Siete già pronti a partire? Andate prima sul sito ufficiale, dove trovate anche le foto degli ospiti dell'acquario. istanbulaquarium.com. L'altra Europa. L'altra Europa, ho appena caricato sulle nostre pagine in Facebook un articolo sul wrestling turco di cui abbiamo parlato, pubblicato sul portale balcanicaucaso.org. Insomma, sono aspetti di questa nuova Europa, l'Europa che è, l'Europa che sarà, e ci piaceva portare anche questo punto di vista all'interno del nostro programma. Con Euronet invece ogni settimana scegliamo un argomento comune che andiamo poi ad affrontare con contributi diversi nelle varie lingue e da vari punti di vista. Il tema di questa settimana riguarda il confine, no? L'Unione Europea e il confine sembra una contraddizione, la libera circolazione nell'Unione Europea ha raggiunto i suoi limiti, e questa è un po' la domanda che si è posto Euronet, a cui si cerca di dare una risposta. Al trattato di Schengen, le dogane, le frontiere, qualche marcia indietro, qualche frenata, pensate alla Francia, pensate alla Danimarca. Insomma, si vuole fare un focus su questo argomento, e per farlo abbiamo invitato la professoressa Angela Del Vecchio, che è professore di diritto dell'Unione Europea alla LUISS di Roma. Buongiorno Angela.

Το ηλεκτρισμένο κλίμα δυναμίτησε η προσαγωγή του Δημάρχου από την αστυνομία, αλλά και η παρουσία ισχυρών δυνάμεων που δεν αποχωρούσαν για να απομακρυνθούν και οι κάτοικοι όπως ζητούσαν. Εμένα προσωπικά με σλάβανε, ο κόσμος κινητοποιήθηκε αμέσως. Έχει μαζευτεί όλη η κερατέα. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Quelle che state ascoltando invece sono voci, suoni e rumori che provengono dalla Grecia. La Grecia che ormai da mesi è ai primi posti dell'attualità europea per la crisi economica, ma non solo, perché ci sono anche delle crisi verde, ci sono delle manifestazioni particolari che stanno appunto costellando la vita sociale della nazione. In particolare siamo a Keratea, una piccola località alle porte di Atene. Da dicembre 2010 i residenti protestano contro la costruzione di una discarica, e questo è uno dei tanti argomenti che verranno trattati da Caffè Babel. Sapete Caffè Babel, di cui abbiamo parlato tantissime volte, questa rivista europea in più lingue che cerca di dare un'altra visione dell'Europa. E Green Europe on the Ground è un progetto di reportage di Caffè Babel che sta seguendo un po' quella che è la linea verde europea. E ad Atene in questi giorni c'è Nicola Accardo, che è responsabile editoriale delle pagine italiane di Caffè Babel. Ciao Nicola, ben ritrovato all'Altra Europa. Buongiorno Federico. Ciao, buongiorno a te. Keratea, insomma, tu ci hai fatto conoscere e scoprire questa situazione, una sorta di notav greca, ed è solo uno dei punti che hai in agenda in questi giorni, che stai un po' affrontando quella che è lo stato dell'ambiente in Grecia. Che cos'è Keratea e cosa stai invece trovando in questi giorni di lavoro? Keratea è un piccolo centro a est di Atene che ha visto un fenomeno particolare, perché mai una popolazione si era così tanto mobilitata contro una decisione del governo greco, che è quella dell'installazione di una discarica in una bellissima valle da cui si vede il mare su tre fronti, e che è anche però una valle protetta per delle ragioni archeologiche. Quindi ieri sono andato a incontrare i leader di questa protesta, che però si è calmata verso Pasqua, verso la fine di aprile, sì. Perché dopo 128 giorni di scontri con la polizia sono riusciti finalmente a trovare insomma una tregua e a rimandare ancora una volta la questione. Questo è il grosso problema della Grecia, che si rimanda forse anche con la causa della crisi, ma c'è un grosso problema di rifiuti, di immondizia, forse anche superiore a quello che noi vediamo a Napoli, perché riguarda l'intero paese. Ah, quindi è proprio una situazione nascosta, perché viene ovviamente sovrastata da quella che è la crisi economica, però stai toccando con mano insomma una situazione grave. In Grecia siamo stati anche a un dibattito, perché Caffè Babel ha un nucleo molto importante qui ad Atene, che ha organizzato un dibattito sul fiume Kifisos, sì, che è il vecchio fiume di Atene, ormai ridotto a discarica, soprattutto di materiali di costruzione abbandonati, e che nell'ultima parte, nella parte sud che porta verso il porto del Pireo, è stato ricoperto interamente da un'autostrada. E questo per spiegare qual è l'interesse ecologico in un paese come questo, che vive una crisi di questo genere. E c'era appunto un anziano architetto che aveva lavorato negli anni 70 per la riabilitazione del Tamigi a Londra, che diceva: questa è una crisi economica, sociale, ma anche ecologica. Insomma, poi il rispetto dell'ambiente va insieme alle altre due cose. Ma c'è una coscienza verde in Grecia, o si sta risvegliando solo in questo periodo, o comunque non c'è una cultura ecologista? C'è chi ha la teoria che addirittura i greci, come ai tempi dell'antica Grecia, abbiano una sorta di timore reverenziale nei confronti della natura, perché la natura è impersonificata dagli dei, ma non è così. Allora c'è una parte della popolazione che vuole rimboccarsi le maniche per iniziare delle pratiche come la raccolta differenziata, che qua in Grecia copre solamente il 10% dei rifiuti, 10% contro una media del 53% in Europa, e ad esempio del 90% in Danimarca. Quindi è una situazione disastrosa che sta cominciando a cambiare, però qual è il problema di base? È che siamo in un momento in cui non c'è nessun tipo di rapporto di fiducia tra la popolazione e la politica, il governo in particolare, lo abbiamo visto nelle settimane, la settimana scorsa in Piazza Sintagma, e quindi se si è rotto questo legame con le istituzioni è difficile mettere in piedi una strategia che possa risolvere la situazione. Certo, insomma, manca proprio quel rapporto di fiducia, no? tra chi fa le leggi e tra i cittadini, quindi tra vita reale e vita politica. E Nicola, in chiusura, un ultimo appunto sui sacchetti di plastica, che so che lì in Grecia sono, come lo sono ovunque, però un problema particolare con un quid in più. Beh, sono un problema in tutto il Mediterraneo, se pensiamo che ci sono in tutto il Mediterraneo circa 500 tonnellate di plastica e 250 miliardi di microparticelle, e l'83% dei rifiuti in mare sono appunto sacchetti di plastica. C'è la nuova strategia della commissaria greca alla pesca, Maria Damanaki, la commissaria europea, che parte appunto il 13 luglio, tra qualche giorno, e prevede di dare delle sovvenzioni ai pescatori perché possano pescare in acqua i rifiuti, anche per compensare di quelle quote pesce, quote tonno che non permettono ai pescatori di pescare quanto il mare gli mette a disposizione. Non è male compensare le quote pesca con le quote sacchetti di plastica, c'è una sua logica, speriamo abbia un senso. Bisogna vedere come reagiscono i pescatori, perché non è il loro mestiere, però molto spesso qua in Grecia, soprattutto nelle isole che hanno il problema più grande dei rifiuti, tornano dalla giornata di pesca avendo pescato più immondizia che pesce, per quello. Quindi insomma è indicativo della situazione di quei mari. Grazie davvero Nicola, di questo e di altro ancora leggeremo nei prossimi giorni su Caffè Babel. Ricordiamo l'indirizzo, che è caffebabel.it. Ciao Nicola, buon lavoro. Arrivederci, ciao. Ciao, ciao, ciao. Europost-it. Capitali verdi. Quale sarà la prossima capitale verde europea? Inizia oggi la ricerca della città che all'inizio del 2014 erediterà il prestigioso titolo. Il premio Capitale Verde Europea distingue e ricompensa le città all'avanguardia nel proporre modalità di vita urbana rispettose dell'ambiente e in grado di diventare un modello per ispirare altre città. Fra il 2010 e il 2013 sono state 4 le vincitrici: Stoccolma, Amburgo, Victoria Gasteiz e Nantes. Oggi tutte le città europee con oltre 200.000 abitanti possono entrare in lizza per il titolo di Capitale Verde Europea 2014. I paesi dove non ci sono città così grandi possono candidare la città più grande. Il premio è assegnato da una giuria internazionale affiancata da un gruppo di esperti di ambiente. Il vincitore sarà proclamato nel mese di giugno 2012. Il 14 ottobre 2011 scade il termine per la presentazione delle domande. Trovate il modulo online per la candidatura insieme con le altre informazioni su europeangreencapital.eu. Ispred novosadskih škola već su u petak uveče bile gužve. Radoznali srednjoškolci nestrpljivo su čekali preliminarne rezultate. Imam 19-18 bodova i neku gimnaziju ću još nasjeti. Moram još da razmislim. 17,5 iz srpskog, 18,5 iz matematike, ukupno 36, upišem ekonomski tehničar 97. Questi sono alcuni ragazzi rumeni che sono stati intervistati fuori dalla scuola. Perché? Sentite un po' qua, questo era il titolo, uno dei quotidiani maggiori della Romania diceva: la generazione Google affonda alla maturità. Più di 100.000 studenti, la metà di quelli che si sono presentati all'esame finale della scuola superiore, sono stati bocciati. È il peggior risultato dalla rivoluzione di 21 anni fa. Un disastro del sistema scolastico, un disastro, qualcuno dice, la perdita dei valori di questa generazione, ma quello che è successo sono numeri assolutamente eclatanti ed allarmanti. 100.000 studenti bocciati all'esame di maturità. Per capire perché, per capire quello che sta succedendo in Romania, abbiamo invitato un'esperta, è una redattrice di TM News, collaboratrice dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, di cui abbiamo già parlato prima. Diamo il benvenuto a Daniela Mugavero. Ciao Daniela. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Tu conosci molto bene la situazione rumena, ma vivi in Romania abitualmente? No, io faccio avanti e indietro perché appunto è più un lavoro che ha a che fare con la Romania ma anche con l'Italia. Come sai, i flussi sono tantissimi dei rumeni che vengono in Italia e quindi è molto più interessante anche vedere la comunità della diaspora romena in Italia, ma anche quello che poi succede in patria. Quindi diciamo è un viaggio continuo. Perfetto. Daniela, 100.000 bocciati, un numero significativo. Sicuramente significativo, soprattutto se pensiamo che fino adesso il sistema scolastico romeno si era un po' vantato anche di essere riuscito a reinserire grandi strati della popolazione, per esempio dal 97 al 2005, raddoppiando gli iscritti al liceo. Però bisogna anche considerare che il sistema scolastico, per come è inteso adesso in Romania, è relativamente giovane, ha affrontato alcune riforme e adesso si attende una fantomatica e importante riforma, una rivoluzione che possa portare il sistema scolastico romeno e soprattutto i ragazzi alla pari con i colleghi europei. Il problema riscontrato, a parte diciamo le difese da parte dei genitori che hanno accusato i professori di non essere abbastanza competenti, i professori a loro volta hanno accusato gli studenti di non voler studiare, di avere poca volontà, di essere superficiali, diciamo che ci sono dei problemi strutturali molto importanti. Da una parte la tecnica utilizzata nelle scuole romene è quella soprattutto della memorizzazione e quindi di una impostazione logica molto inquadrata, da cui certo, difficilmente si sono spostati anche i nuovi professori. Dall'altra, un deficit di investimenti, e su questo appunto si è concentrato tantissimo la polemica in questi giorni, a parte le accuse di corruzione rivolte agli esaminatori. Ah, addirittura? Sì, questo è un problema molto grave. La Romania è messa all'indice spesso in Europa per problemi di corruzione legati alla propria classe politica, però tra il 2008 e il 2010 ben 23 ispettori, 140 esaminatori generici sono stati posti sotto processo con l'accusa di aver dato tangenti per far passare gli esami appunto ai ragazzi della maturità. Quindi da questo punto di vista il ministro dell'istruzione, che è stato accusato dall'opposizione di essere responsabile di questa catastrofe della generazione Google, da questo punto di vista appunto il ministro ha detto che il problema non è il sistema scolastico, il problema è capire che Romania si vuole. E allora, tra i ragazzi onesti, come li ha chiamati lui, che è il 40% che ha passato questi esami di maturità, e invece coloro che senza il sistema di sicurezza che era stato approntato per questi esami. Sì, infatti leggevo di telecamere in classe. Comunque, insomma, problema strutturale, mi sembra anche che ci sia un po' un gioco di rimpallarsi le responsabilità. Però in chiusura, Daniela, tu questa generazione Google l'hai conosciuta, l'hai frequentata, l'hai vista, ci hai parlato, come sono questi giovani rumeni? Sicuramente sono dei ragazzi che hanno un problema col passato e un problema col presente. Un problema col passato dipende dal fatto che non tutti sanno o vogliono sapere che cosa è successo 20 anni fa. Sì. E quindi sui libri di storia è anche difficile trattare una parte della loro storia. Dall'altro, un problema presente, probabilmente è vero, si sono affidati troppo e troppo velocemente ai mezzi come internet, Google, appunto, ai mezzi per conoscere. Il tutto è subito, il poco. Esatto. La sopravvivenza, diciamo, una soglia minima di sopravvivenza, e quindi si è persa poi con la voglia di sapere, forse di andare in profondità. Hanno avuto poca voglia, sì, poca voglia, sicuramente. E quindi insomma speriamo che queste riforme, non solo strutturali ma anche culturali, perché è lì che si va a parare, possano trovare un faro adesso, speriamo, nei nuovi governanti. Grazie davvero Daniela, grazie per grazie il tuo lavoro, te. Ma ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa in una delle prossime puntate. Ciao. Grazie a te, ciao. Ciao. And harvesting everything that flourishes under the Tuscan sun. This year they're venturing deep into hidden Italy to source new produce. Let's go find a pig. Wow, just look at all that crackling. Yes. and gambling on a new money-making scheme, helping the next wave of Brits find their own little slice of the Italian dream. Italian Dream, una sorta di reality, si può diventare famosi in televisione anche così, scegliendo di spostarsi da Londra e magari andare a vivere in Toscana. Richard, sei diventato famoso? un po', buongiorno. Buongiorno a te. Allora, Richard Turnbull. Protagonista di una serie TV che è nata in onda, su quale canale? In Inghilterra era su canale 4 e poi era su Sky qui in Italia. Oh, ok, quindi insomma hai avuto una massima diffusione e più serie sono state fatte, ma raccontaci com'è nato il tutto. In breve, io ho fatto DJ in Inghilterra. Sì. si sente il piglio radiofonico in effetti. E poi abbiamo visto una casa sull'internet che ha l'olive, le piante di frutta, i rio che passano dalla casa, tanti sereno, bosco. Dove? Abbiamo piaciuto questa casa e poi 3 mesi dopo siamo qui in Italia. Ma in Toscana dove precisamente? È vicino Pescia. Ok, quindi insomma siete rimasti infatuati da questa fotografia, da questa immagine. Solo dalla casa, non sapevo niente della zona, del Toscana in particolare, ma è proprio questa casa. Siamo rimasti colpito da queste case. Quindi una scelta, tu, la tua compagna, la tua famiglia, insomma, vi siete trasferiti e per ottimizzare questo trasferimento avete di fatto venduto un pezzo della vostra vita alla televisione. Ci avete detto seguiteci e così vi raccontiamo cosa vuol dire cambiare vita? Mi sembra qui in Italia era chiamato La vita in campagna. Sì. E poi perché abbiamo fatto 3 serie, non sono sicuro il nome delle altre. Okay. Ma è proprio questo programma, il primo che abbiamo fatto quando siamo arrivati qui in Italia, c'erano più di 3 milioni di persone in Inghilterra hanno visto questo programma, che è una cifra enorme. Sì, assolutamente. Non è colpa nostra, ma questa è una cifra enorme. Poi hanno fatto una serie l'anno dopo della storia continua. Sì. E poi 3 anni fa c'era un altro programma per vedere, ora abbiamo 4 bimbi, come vanno le cose per noi dopo 7 anni. Okay. Ma adesso siamo a 10 anni. E adesso avete spento le telecamere finalmente? Per ora sì, per ora c'è tempo per qualcun altro. Ok, Richard, ma insomma una bella storia, al di là della televisione, che insomma fa spettacolo, fa circo, quindi ci piace, però alla fine dopo 10 anni questa scelta di abbandonare l'Inghilterra per la Toscana, sei contento? Cosa ti ha dato l'Italia? Soprattutto gli italiani. Soprattutto gli italiani abbiamo trovato molto felice, molto gentile, e la differenza qui è in Inghilterra le persone lavorano per 50 settimane. Sì. Per fare 2 settimane di vacanza. Okay. Qui in Italia ogni giorno c'è un po' di vacanza, mangiano bene, prendono tempo con i famiglia. Non è il discorso di soldi qui in Italia. No, proprio di qualità della vita, diciamo. Insomma. Esatto, esatto. Sì. Ecco. In Inghilterra non è così. Quando vengono qui gli inglesi per fare, per esempio, per comprare una casa, si fa la pausa di pranzo e loro vogliono solo prendere una panino, una Coca-Cola e via. Ma no, guarda, dobbiamo fermare un bel po' e mangia bene. Non solo la domenica o Natale, si mangia bene ogni giorno. Beh, Rizza, direi che sì, insomma, hai fatto tu una delle parti più belle sicuramente della nostra italianità. E tu di cosa campi però adesso in Italia? Non ho capito, scusa. Come vivi? Che lavoro fai? Adesso facciamo una rivista, si chiama The Tuscan Magazine. Sì. Che è disponibile online, www.thetuscanmagazine.com. Sì. Anche un'applicazione per collegare il migliore parte di Toscana, di Italia, con gli inglesi che vengono qua, i turisti, ma anche che abitano qua, non solo inglesi ma americani, tedeschi. Ci sono tanti qui in Toscana, 300.000 persone che parlano inglese abitano sempre qui, più di 20 milioni di visitatori. Vuol dire che questo è un buon mercato per gli italiani, che fanno buon prodotto, buon servizio qui in zona. Certo. Ma anche, non esiste un'altra rivista così per inglese come noi, che abbiamo deciso un anno fa da fare questa rivista, perché abbiamo detto per 9 anni, come mai non c'è una rivista per Toscana? E adesso l'hai realizzata tu. Grazie davvero Richard, complimenti per la tua storia. Ciao. Il link, ma anche i video, ma anche gli audio di tutt'oggi li potete trovare sulle nostre pagine facebook.com/l'altra Europa. Noi ci ritroviamo sabato prossimo con l'altra Europa e domani domenica alle 17 con Mine Vaganti. Un grazie a tutta la squadra dell'altra Europa. Ciao da Federico Tardia.